con Federico Iris Osmo Tinelli per parlare del suo film WhatsApp, che all'interno della rassegna Fuori Norma sarà in programmazione a Roma all'Apollo 11 giovedì 25 ottobre. Federico, ben trovato. Ciao, ciao a tutti. Come lo presenteresti il tuo lavoro? Ma ho pensato di dire che sostanzialmente bisognerà un po', da una parte, avventurarsi in un territorio, credo, sconosciuto, nuovo, da scoprire e metterci del proprio, diciamo. Dall'altra, abbandonarci, sì, quindi da una parte ci vorrà un pubblico di avventurieri, ma dall'altra anche, diciamo, un pubblico che abbia la disponibilità un po' a fidarsi e entrare così, un po' sognanti in questa dimensione. Come aveva avuto origine tutto? All'inizio del 2017, mentre stavo facendo delle riprese di un altro lavoro, mi scivolò il mio vecchio telefonino dalla tasca, precipitò per parecchi piani sfracellandosi sotto, irrecuperabile, per cui all'atto di constatare che niente, era arrivato il momento di cambiarlo, diciamo con 10 anni di ritardo rispetto a tutto, come dire, ho preso un telefono con la possibilità di avere queste app. Insomma, io non sono uno turbo, aggiornato su tutto, e per cui mi sono ritrovato improvvisamente a scoprire che c'era questa eventualità, questa possibilità di registrare tracce. E quindi ho chiesto a una serie di persone, così non so bene con quale criterio l'abbia fatto, però così è accaduto, di se volevano mandarmi delle tracce registrate quando sentivano la necessità, l'ispirazione di farlo, e così fecero. In 2 o 3 mesi ho raccolto parecchie tracce, poi le ho selezionate e ho costruito un impianto visivo su queste tracce audio. Quindi stilisticamente è un audio e un video su cui hai lavorato tu. Diciamo così, è come se mi fossi dato un codice. Ok. Il codice era questo. Da una parte l'ho razionalizzata dopo, però diciamo che il criterio con cui ho scelto le tracce era non tanto quelle dialogiche, per cui in qualche modo dove no, cioè, tutti usiamo tutti i giorni per scopi utilitaristici le tracce o per chiacchierare, per divertimento. Invece quelle che ho scelto erano come dei messaggi messi dentro la bottiglia lanciata nell'oceano. Cioè, in qualche modo, nonostante fossero indirizzati a me, avevano come caratteristica quella di essere una sorta di monologo, anche se non so, un po' una forzatura a dirlo, perché comunque erano indirizzati a me. Quando sentivo che era arrivata la traccia che stavo cercando, ci si incontrava. Non voglio dire troppo, però ecco, diciamo che l'impianto visivo è da una parte, per risponderti, da una parte è la mia costruzione personale, quindi fatta diciamo separatamente dai protagonisti, e poi invece c'è una parte realizzata insieme a loro. Ok. Dal punto di vista estetico, hai dei riferimenti cinematografici di qualche autore in particolare? Bella domanda, cioè, sicuramente potranno essere rintracciati diversi nomi, perché comunque diciamo non è che sono proprio così, cioè in qualche modo la storia del cinema la conosco. Non ho un riferimento preciso a qualcuno, penso che appunto si possano rintracciare diversi nomi nell'operazione, ne potrei, non so, potrei fare una lista di almeno 15 nomi. Cioè, da Romera al Dogma 95, cioè, non lo so, veramente si può. Diciamo che la mia ricerca è molto, cioè, credo che chi, quando dicevo prima che ci si dovrà avventurare in un territorio nuovo, credo che farà la diagnosi che farà il pubblico stesso durante e dopo, nel senso che in qualche modo non riesco a non andare a cercare nei nuovi codici e a fare, diciamo, l'avanguardia di me stesso, quindi, perché ecco, una cosa a cui tengo molto, colgo l'occasione. Io credo che sia la prima volta che in termini popolari il linguaggio è più avanti delle elite culturali. In che senso? Cioè, penso che WhatsApp e Facebook abbiano creato un nuovo linguaggio in cui vengono fuse scrittura e linguaggio visivo. E paradossalmente però invece le elite culturali non stanno cogliendo l'occasione, cioè non stanno facendo proprio in termini autoriali questi nuovi linguaggi, quindi per lo più in realtà spesso sono operazioni magari anche molto divertenti, ma abbastanza piatte sul piano estetico, filosofico e anche, come dire, narrativo, però molto interessanti sul piano invece di quello che è questo nuovo linguaggio, dove appunto viene fusa parola, scritta e linguaggio visivo. A me invece interessa tantissimo questo elemento, questa fusione, diciamo, e sto lavorando da anni su questo. Questo quindi è un esempio in cui viene declinata questa possibilità. Al di là della rassegna fuori norma, hai avuto un circuito distributivo di qualche tipo? Vabbè, uscirà a Milano, al Cinema Beltrade, e lentamente, vabbè, io adesso come ti dicevo prima, sono appena tornato dall'Asia dove ho girato un film. Non ho avuto tantissimo tempo, però diciamo che sto lavorando personalmente alla distribuzione, e quindi nei prossimi mesi capirò meglio, però insomma mi sono posto come missione di arrivare almeno a 30 proiezioni su 30 schermi prima di come dire, mollare l'osso, e so che ci arriverò, però ecco, adesso è un po' presto per darti una risposta precisa. Ok, in chiusura, a questo proposito, ci lasci dei riferimenti web per saperne di più? Allora, c'è un sito che bisogna scrivere WhatsApp. Nel frattempo è uscita una trasmissione televisiva che sono un po' costernato, non che abbia mai riposto parecchia fiducia nei titoli dei miei lavori, però vabbè. Quindi c'è un sito che è WhatsApp, scritto WhatsApp come in italiano, e sicuramente i social, Facebook col mio nome, il Facebook e l'Instagram fuori norma, eccetera, sono delle buone occasioni in qualche modo per seguire il progetto, che verrà poi riproiettato sempre a Roma, adesso non ricordo la data, però credo intorno tra novembre e dicembre. Allora, ricordiamo la proiezione del film WhatsApp all'interno della rassegna Fuori Norma a Roma, l'Apollo 11, giovedì 25 ottobre. Un saluto e un ringraziamento al regista Federico Iris Osmo Tinelli. Federico, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Super, grazie, saluti a tutte e tutti, grazie, grazie, grazie, veramente, venite.